Benvenuti a Forum, lui porta in causa una ragazza dell'ex conosciuta in chat. Lei si trasferisce in Italia e porta anche il figlio avuto da una precedente relazione. Sembra andare tutto bene, ma lui scopre che la tradisce con il suo migliore amico, dal quale ha un figlio segreto. Lui dice al marito che il figlio è suo, ma lui scopre l'inganno solo dopo 10 anni, quando l'altro figlio del marito, avuto da una precedente relazione, viene a vivere con loro, perché l'ex moglie non riesce più a tirare avanti con l'essere mensile che passa l'ex marito. La nuova compagna chiede 1.000 euro di danno, perché ha dovuto lasciare la Russia e ha portato via anche il figlio, che là aveva un futuro garantito. L'altro figlio per caso ascolta una conversazione telefonica tra la madre e il vero padre del fratellastro. Lei non ha detto niente in tutti questi anni per amore, ma lui non ne vuole sapere. Lo doveva dire subito, poi avrebbe ventito lui se troncare o continuare con questo rapporto. La caccia di casa, nel frattempo lei trova un nuovo compagno che è una figlia avuta da una precedente relazione e si viene a sapere che aveva avuto una scappatella con il marito della matrigna. Come ha potuto vivere 10 anni con un morto in casa e non ne accorgere di niente? Improvvisamente il padre vuole rilanciare i rapporti con il figlio ormai cinquantenne e recuperare il tempo perso, ma niente da fare. Tu non c'eri nei momenti importanti, alle partite di calcetto, alla credima, alla comunione, alla recita di Natale, ai saggi di danza della figlia avuto del precedente rapporto. Ma ecco che a sorpresa nessuno se l'aspettava, arriva in aula un altro figlio di cui nessuno sapeva l'esistenza. È il figlio della moglie segreta, del primo marito, del fratello, che ha avuto una storia con la figlia della nuova compagna del marito conosciuta in Russia in un viaggio di lavoro. Ci sono prove inconfutabili, perché lei ha postato il selfie su Facebook e la ritraggo insieme. E poi sembra ci sia anche un video hard girato dal fratellastro, postato su internet per ricattarli. Bisogna fare attenzione con i social, perché possono essere utili, possono anche diventare pericolosi. La parola va al pubblico, e ogni intervistato ha vissuto in prima persona una situazione simile e ne è uscito brillantemente, rimboccandosi le maniche, perché va interessata solo ai soldi, è insensibile. Ma come fa a vivere sapendo che la moglie non ce la fa più a comprarsi la borsa di Prada e il figlio non riesce ad aggiornarsi con l'ultimo iPhone? Il giovane non si adatta a fare i lavori pesanti e le badanti vengono a rubare la pensione ai pensionati. Ma un attimo, fermi tutti, pubblicità. Ma perché la terrassa il balone con il numero di fanco? Comprate Morgana, la poltrona vegana. Questo è un attimo, vostro compagno in uno splendido sbuono. Dobbiamo un attimo sospendere, riprendiamo dopo la pubblicità. Faccio raccontare i cazzi tuoi, se io di loro ti fanno i cazzi tuoi. Ti faccio raccontare i cazzi tuoi, se io di loro ti fanno i cazzi tuoi. Ora tutti sanno che sei un perdente, ora tutti sanno che sei un potente, ma che importa, hai la celebrità. Quindi che il teatro ti sostiene, fare come ti piace e ti conviene, e poi ti assicura la celebrità. Ti faccio raccontare i cazzi tuoi, se te non ti vuole tutti sanno i cazzi tuoi. Mi piace raccontare i cazzi tuoi, se non ti vuole tutti sanno i cazzi tuoi. Ora tutti sanno la montata di quei stipendi, ora tutti sanno che per soldi ti vendi, ma che importa, hai la celebrità. Ora chiedi i bambini in affidamento, ora chiedi anche un risarcimento, ma soprattutto la celebrità. Signori cortesemente in piedi, entra in aura il giudice. Thank you. Maria, che non è mia figlia. Ho scoperto che mia moglie avevo concepito quella che credevo fosse mia figlia con un altro uomo. E l'ho saputo. Vai. Tanto lei mi ha rovinato la vita, tu! No, tu ami le vecchie! Signora! Le vecchie! Un giorno sono andata a cercare la password. Ho provato 1069, si è bloccato! Io sono rimasta sconvolta, signor giudice, che io sono andata all'appuntamento che loro, perché io certamente non stavo lì a guardare a quel punto. Mi sembrava di essere una 007, sono andata dietro gli alberi, dietro i cespugli. Signor giudice, mi sono nascosta, mi sono dovuta mettere dietro. Dove sta cazzo? Giudice, ma si rende conto? Allora, io capisco che entri il suo... Via! Via! Allora, via da allora casa! Non via! Via! Ho scritto hot, volevo fare l'hot chocolate, è uscito hot, è uscito di tutto, io non lo aspettavo mai più! Video, effusioni, 8000 su 2000! Perdona se quel che faccio è fatto io, però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, se questa è un'amicizia nuova faccio sì, no. Ma ci rendiamo conto che tu sei perverso, no, sei malato! No. Sempre lo consente. Grazie. E le corna, quando le corna sono altrui. Ma cosa c'entra? E allora qui le corna le ho avute io, che sono voluto emaziato. E allora ti insegno. Sei un mostro. Perché tu mostro, stai anche pilotando la bambina contro di io te. Io non sto pilotando, mia figlia, lo vuoi pilotando che non parla più. Ma prima di ritornare su Nicola e Loredana abbiamo bisogno di testimone. Tutto sono io, cioè, lei, giusto per lei, eh? io faccio la parte, cioè la parte del cattivo, ma il cornuto sono io. Il tema. E l'avevo pure perdonata. E durante il mio lavoro in Grecia io stavo a impastare, lei si faceva impastare da qualcun altro. Ma dai, per piacere, ci cornuto Massimo. No, scusate. Ti piace raccontare i cazzi tuoi? Se non dico a tutti sanno i cazzi tuoi. Ti piace raccontare i cazzi tuoi? Se non dico a tutti sanno i cazzi tuoi. Il pubblico ti darà consigli, l'importante è il benessere dei figli, ma soprattutto la celebrità. Ora che tutti ti hanno insultato, ora che per tutti sei uno sfigato, riscuoti la celebrità. Ti piace raccontare i cazzi tuoi. Sei un divorato, ti sanno i cazzi tuoi. Ti piace raccontare i cazzi tuoi. Sei un divorato, ora tutti sanno i cazzi tuoi. Ora il giudice ti condannerà a pagare, poi ci scrittiamo se la gente non si vuole più sposare. Si fa tutto per la celebrità. Tanti casi inventati, tanto la gente stolta. Così è deciso, l'udienza è tolta. Questa è la mia decisione, l'udienza è tolta.